Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale, e meno male. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai, qui non arriva. E tu non dormi, e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera. Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai, quando qualcosa ti agita. Tanto lo so che tu non dormi, dormi, dormi, dormi, dormi mai. Che giri fanno due vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto, che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, persi tra le persone con te parole senza mai una risposta. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, e lo sai, qui non arriva la musica. E tu non dormi, e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera. Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai, quando qualcosa ti... Se questa è l'ultima canzone, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, e lo sai, qui non arriva la musica. Tanto lo so che tu non dormi, dormi, dormi, dormi, dormi mai. Che giri fanno due vite.